Incontri di Gianfranco Fabi. Con il passo di carica dell'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Adriano De Maio. Buonasera a lei, dottor Fabi. Adriano De Maio è stato rettore del Politecnico di Milano, adesso è presidente dell'area ricerca di Trieste, poi ci spiegherà che cos'è l'area ricerca di Trieste, ma iniziamo da Guglielmo Tell, questa musica così irruente, una passione per la musica, una passione per l'opera anche. Una passione per la musica, una passione per l'opera, una passione per la cavalcata iniziale di Guglielmo Tell, che è una musica, secondo me, che si presta bene per la ricerca. Cioè una voglia di fare, una voglia di andare avanti, una voglia di scoprire e di superare anche gli ostacoli. Assolutamente sì. Sempre ci si riesce, ma ci si tenta. Ma in Italia sono più gli ostacoli che ci sono o quelli che ci creiamo? Tutte e due ci sono e sono notevoli. Quelli che ci creiamo dipende cosa intende per ci, nel senso che... Come paese. Ah, come paese sono giganteschi, sono forse allora più quelli che ci creiamo che non quelli che ci arrivano da altre parti. Il primo elemento in cui ci creiamo, se vogliamo entrare subito a parlare di ricerca, è che, possiamo dire quasi mai, per non dire mai perché non esiste mai, non abbiamo avuto una strategia di ricerca per l'Italia. Ecco, questo si dice spesso, l'Italia è sempre agli ultimi posti come spese per la ricerca e sviluppo, però poi qualcosa c'è. No, la ricerca si fa e ci sono dei punti di assoluto valore, nonostante tutto, nel senso che ci sono delle scuole antiche, delle scuole tradizionali, antiche nel senso che esistono da molti anni, tutt'altro che anzi, quindi sempre innovative. Ci sono, è tutto a macchia di leopardo il paese, ci sono ma non c'è una strategia, il che significa che non abbiamo ad esempio l'individuazione dei principali campi di riferimento, non abbiamo un reale sistema di valutazione meritocratico, non abbiamo un sistema di feedback, per cui... laddove funziona, funziona bene nonostante tutto, perché i ricercatori sono bravi, perché esiste magari qualche caposcuola attuale e passato che ha fatto funzionare, ma direi che tutto avviene all'insegna dello spontaneismo o di altri tipi di rapporto che sono di natura personale, di natura... più o meno positivi. Alcuni sono positivissimi, perché altrimenti non si farebbe niente, altri sono molto negativi. Ecco, in questa prospettiva c'è un problema appunto di strategie dell'innovazione, c'è un problema anche di rapporto tra la scuola e le imprese. Lei quando era rettore politecnico, ricordo, ha fatto molte iniziative per collegare la scuola alle aziende, per far entrare i giovani nel mondo del lavoro direttamente, per dare sostegno anche alle aziende attraverso la ricerca dei giovani e dei diversamente giovani. Beh, io ero in una situazione particolarmente fortunata. Il contesto di non soltanto di Milano, ma del Politecnico di Milano è per fortuna abbastanza diverso dagli altre università, radicalmente diverso dalla media dell'università. Non possiamo dimenticarci la storia, quindi io dico sempre che c'è il DNA. Il Politecnico di Milano è stato voluto dalla comunità lombarda per sviluppare l'intelligenza nel campo tecnologico, per aiutare lo sviluppo economico e così via. E questo è rimasto da 150 anni. Questo DNA c'è rimasto, per cui il fatto di poter avere questo collegamento, che in alcuni momenti si è attenuato, intendiamoci, alla fine degli anni 60, anni 70, si è attenuato questo per motivi ideologici, ma c'è sempre stato. Quindi io cioè mi sono il DNA trovato... è quello di un rapporto tra pubblico e privato che è più di identificazione che di contrasto. Assolutamente sì, è di un rapporto sinergico, collaborativo, che dir si voglia, se lo vogliamo dire alla latina. È collaborativo da sempre. Ricordiamoci che il premio Nobel italiano che ha lavorato essenzialmente soltanto in Italia, il premio Nobel Giulio Natta, era un lavoro congiunto fra Politecnico e Montecatini. Per cui non c'è mai stato questo scontro, anzi il collegamento, la docenza quando ero studente io, molti anni fa, dottor Fabio. Del secolo scorso. Del secolo scorso, del millennio scorso, del millennio scorso, sì. C'era le lezioni la mattina dei professori universitari e il pomeriggio le cosiddette esercitazioni degli ultimi 2 anni erano tenute tutte quante da professional di azienda. Ecco, per cui... Ma ricordando un po' quando gli anni passati, quando era studente, come mai le è venuto in mente poi di fare appunto il professore, il ricercatore in quest'ambito e non il pilota d'aereo o il cantante? Allora, la mia vita con le mie scelte sono state varie e in alcuni casi casuali. Come sempre. Io quando studiavo mi sono iscritto per poter diventare eventualmente premio Nobel seguendo Giulio Natt, quindi non in chimica ma in elettronica. Ma poi appena laureato sono andato a lavorare in industria, quindi ho scelto l'industria. Poi per una serie di motivi, nel senso che a mio avviso l'industria non mi dava, quell'industria fra l'altro io con capi bravissimi, non mi dava lo spazio per approfondire, sono andato dal mio maestro da con cui mi sono laureato, gli ho detto: senta, posso stare qui a occupare una sedia per 6-8 mesi gratis, perché mi interessa studiare. E lui dice sì e poi ci sono rimasto. Quindi ecco l'occasione. Beh, anch'io sono diventato giornalista perché ho incontrato per caso un amico per strada che faceva anche lui e mi ha detto: ma perché non vieni a conoscere? E allora la casualità molto spesso è importante, ma cogliere le occasioni è altrettanto importante. Sì, in questo poi senso. Anche lì ho avuto una fortuna gigantesca ai miei tempi, perché ai miei tempi c'era un buco, ad esempio io ho fatto elettronica e quindi allora nasceva elettronica, io sono stato il secondo o terzo anno in cui c'era ingegneria elettronica e lì c'erano 4 baroni, tutti bravissimi, intelligenti, e un super barone che non sapeva niente di elettronica però aveva lo sguardo acuto e quindi l'elettronica l'abbiamo fatta noi 25-30 anni. Quindi con uno spazio meraviglioso. Guardi, sono stato fortunato nella mia vita da questo punto di vista in maniera incredibile. Essere un po' pionieri in un certo ambito, e proprio la volontà di capire che si può sempre andare avanti. Sì. Ogni tanto guardando anche alla realtà dell'innovazione, cioè, beh, adesso siamo arrivati, abbiamo inventato tutto. No, mai. Non siamo mai inventati. Più si innova, più si inventa e più ci sono cose da inventare. E quindi ecco, c'è spazio per la ricerca. Allora, enorme. Abbiamo parlato dell'area ricerca di Trieste prima di concludere questa prima parte del nostro dialogo. Cos'è l'area ricerca? L'area ricerca è una realtà purtroppo poco nota in Italia, invece è splendida perché è l'unico parco nazionale scientifico e tecnologico. L'obiettivo del parco è quello di dare un supporto, un sostegno forte allo sviluppo di attività economiche industriali basate sull'innovazione a base tecnologica. Quindi noi, i miei dipendenti, chiamiamo così, del parco sono pochissimi, sono 130 e fondamentalmente metà sono attività amministrative, metà di aiuto e sostegno a una serie di iniziative. I residenti nel parco sono oltre 2600 e quindi sono di istituti di ricerca pubblici e privati, di aziende, di nuove aziende, di spin-off estremamente interessanti. Abbiamo la fortuna di avere uno dei più grandi investimenti in termini di facilities, perché c'è il sincrotrone e la luce del sincrotrone. Una volta tanto i soldi nazionali sono stati ben spesi. Ecco, da ingegnere elettronico a un profano, che cos'è la luce di sincrotrone? È un enorme microscopio. Ecco. Ci fa vedere la struttura delle materie in una profondità e con un'acutezza tale che non possiamo vedere. Esempio, si va dall'analisi di nuovi materiali, nuovi metalli, fino a una diagnosi precoce del tumore. Quindi, possiamo dire che l'area di ricerca è un luogo dove c'è accoglienza a chi fa ricerca e sono anche strutture operative che aiutano la assolutamente struttura sia logistica sia fisica, diciamo. Quindi ci sono il posto dove le aziende possono mettere i laboratori e nuove aziende soprattutto possono cominciare la loro attività, sia in termini di aiuto, sostegno di infrastrutture come il laboratorio del sincrotrone, che è uno dei migliori 4 nel mondo. Ho capito. Quindi, ecco, ma concretamente chi paga? E chi paga? Il nostro bilancio attuale è 1/3 dallo Stato e 2/3 nostro. Quindi con risorse date dai ricavi delle ricerche che fate per le imprese. Ma dato tutto, dato anche dagli affitti dei locali. Quindi se la Fabi, società per azioni che si occupa di innovazione tecnologica, vuol venire, paga un certo affitto. Incontri. Ora con la dirompente aria del Guglielmo Tell di Rossini riprendiamo il nostro incontro con Adriano De Maio, già rettore del Politecnico di Milano, ora presidente dell'area ricerca di Trieste. Abbiamo già spiegato nella prima parte che cos'è l'area ricerca, questo luogo a Trieste tra i principali luoghi italiani dove si fa ricerca, che aiutano, che può aiutare e aiuta anche con degli strumenti operativi. Ha spiegato Adriano De Maio la luce di sincrotrone, che cos'è questo microscopio che guarda all'elettronica, che può essere appunto utilizzato per analizzare tante cose, comprese quelle che riguardano la nostra salute. E abbiamo parlato molto dei problemi della ricerca in Italia, dei problemi dell'università. Come sta l'università italiana, Adriano De Maio? Domanda difficilissima, perché non esiste l'università italiana, esistono le università italiane. Anche qui con una grandissima varietà, ci sono non solo, ma anche all'interno della singola università. Siccome è difficilissimo, anche lo dice un ex rettore, è difficilissimo intervenire per modificare sostanzialmente l'università, quindi avere un sistema meritocratico interno all'università. Noi abbiamo che università che mediamente competono a livello internazionale, che sono giustamente quotate molto alto, hanno dei bacchi su cui non ci si può fare praticamente niente per i vincoli, diciamo, legislativi e normativi. Ecco, ma sono vincoli legislativi che derivano anche da una certa volontà dell'università di mantenere quelli che chiamiamo privilegi all'interno, le baronie, i posti inamovibili, queste cose qua? In parte sì, la colpa non è mai soltanto di uno, la colpa è anche dell'Accademia, che molto probabilmente non affronta i temi importanti in maniera sufficientemente forte. Dipende, adesso oggi abbiamo un presidente della CRUI giovane e bravo, è il rettore di Bergamo, è Stefano Paleari, molto bravo, viene dalla scuola Politecnico. CRUI è conferenza dei rettori. Conferenza dei rettori, la CRUI, chiedo scusa, ho fatto una cosa tecnica, la CRUI è la conferenza dei rettori. Ecco, in cui adesso vedremo cosa fare, ma c'è un problema colossale su cui io mi sono sempre personalmente battuto, ma che non risolveremo, che è la eliminazione del valore legale del titolo. Cioè, lei è favorevole? Assolutamente sì, deve essere eliminata. Per sviluppare un'università deve essere eliminata, perché è l'unico modo per cui la si mette di fronte alle proprie responsabilità. Responsibility and accountability, se lo diciamo all'inglese, altrimenti responsabilità è rendere conto di quello che si fa e valutazione. Finché non esiste l'eliminazione del valore legale del titolo, questo è molto attenuato. Poi l'industria va a vedere dove uno è laureato, con chi si è laureato, va a vedere anche il curriculum e le votazioni. Però è un fatto singolare, ad esempio per la pubblica amministrazione dello Stato, chiunque laureato in qualunque università ha gli stessi uguali diritti. È uguale. Certo. Anche se le università sono molto diverse, però molto diverse. Ci sono molti giovani che dalle università italiane hanno la preparazione e poi vanno all'estero. Quindi le università italiane preparano bene anche all'estero, possono trovare delle opportunità molto forti. Questa, in un certo senso, è una perdita per il sistema paese, soprattutto se non tornano. È un elemento fondamentale, a mio avviso, perché l'andare fuori è fondamentale, e fra l'altro finché ci saranno richieste a certi livelli, questa è una dimostrazione, come diceva lei giustamente, di una validità del nostro sistema di formazione. In alcuni casi le nostre tesi di laurea, sto parlando di più di quelli che conosco nell'ambito scientifico e tecnologico, equivalgono a una tesi di dottorato negli altri paesi del mondo. I nostri dottori di ricerca sono veramente, mediamente, nelle università buone, eccellenti, veramente eccellenti, per cui è giusto che vadano. Il problema è, non è tanto il rientro dei cervelli, che io ho sempre odiato come dizione, è l'attrattività di cervelli da altre parti del mondo. Se poi sono anche di origine italiana, meglio, ma non è necessario. Cioè lo scambio. Il problema è che ci sia lo scambio. Lo scambio, abbiamo un bilancio finale che è negativo. Abbiamo, mentre viceversa, il nostro obiettivo è quello di avere un bilancio positivo fra ingressi e uscite. Le uscite ci dovranno sempre essere, guai mai se si bloccassero. Sarebbe proprio una dimostrazione di non validità della nostra università. Quindi a un giovane che vuole appunto intraprendere un percorso universitario, innanzitutto lei cosa consiglia? Di scegliere bene l'università? Assolutamente, prima di tutto. prima di tutto, e quindi e poi di scegliere un corso di laurea più guardando al mercato o più guardando alle proprie potenzialità, guardando le proprie passioni? Guardando a se stessi. Io tutto quello che consiglio ai giovani sempre è: fate quello che vi piace e per cui siete portati, non guardate fuori, perché poi se fate bene quello per cui voi vi sentite attratti, magari farete un lavoro completamente diverso, ma il vostro percorso di studi è stato eccellente in tutti i casi. Se siete bravi, se siete intelligenti, fate quello che vi piace. Ecco, anche sotto questo profilo, forse l'attrattività della ricerca scientifica è un po' in secondo piano rispetto ad altri elementi, ad altre discipline. Pensiamo alle discipline estetiche, pensiamo alla moda, pensiamo all'architettura, queste cose che hanno più un contenuto, diciamo, di apparenza che di sostanza. Però anche sul fronte della ricerca scientifica le possibilità, dicevamo prima, ci sono sempre. Sono assolutamente sempre. Non solo, ma se posso far perdere un minuto su un discorso di un'iniziativa apertasi qualche tempo fa, del cosiddetto, è stato creato una fondazione che è il Centro Europeo di Nanomedicina. Noi abbiamo fatto una richiesta di intervento da parte di scienziati, abbiamo avuto 91 domande da tutto il mondo e sono stati attivati 3 nuovi gruppi di persone nuove con elemento D che stanno facendo un'attività di ricerca multidisciplinare incredibile. Ecco, noi l'ultimo elemento che volevo dire su questo è che abbiamo una cultura di base, speriamo che rimanga, legata molto a quello che in questo momento a mio avviso è il punto centrale della ricerca, cioè la complessità, l'interdisciplinarità effettiva. Noi siamo stati formati dalla nostra scuola. Io dico anche perché c'è una cultura di base classica, sulla sintesi, sì, sulla possibilità di mettere assieme tante cose. Alcuni dicono che è perché siamo abituati a fare un po' di pasticci, diciamo. Ecco, però è un po' un'arte non solo di dare le risposte giuste, ma anche di farsi le domande giuste. Assolutamente sì. E questo si ha solo guardando un po' la realtà nella sua diversità, nella sua complessità e anche nella sua umanità, in fondo. Sì. Lo scienziato è in fondo è un uomo. Lo scienziato è un uomo e noi abbiamo bisogno di una scuola che insegni la capacità critica, il non ipse dixit, sempre la curiosità e il rischio e la responsabilità. Anche perché la ricerca deve puntare poi ad essere una ricerca incrementale, non è che si possa scoprire qualcosa di nuovo, di particolarmente nuovo, magari si scoprirà, lo si inventerà, un'invenzione ci può essere, però adesso è soprattutto sul fronte di rendere magari più disponibili a tutti anche le grandi opportunità che la scienza della tecnologia ha realizzato negli ultimi anni. Ha perfettamente ragione, guardi che anche quelli che appaiono per la maggiore nel campo ad esempio del software, di quelli che hanno fatto miliardate, i nomi sono sulla bocca di tutti, sono tutte incrementali, sono tutte innovazioni incrementali, non ci sono scoperte di base sono di altra natura e hanno permesso queste innovazioni, ma non sono quelle che fanno grande successo, sono quasi tutte, non tutte, ma quasi tutte innovazioni incrementali. Ecco, c'è qualche progetto nell'area di ricerca di Trieste a cui è particolarmente affezionato? Beh sì, ci sono alcuni progetti, alcuni progetti sono nell'ambito energia, estremamente interessante, parlo di due campi completamente diversi, l'altro è un progetto legato allo sviluppo di un territorio, in termini globali e generali. Abbiamo nel campo bio estremamente attenzione con una serie di attività di ricerca, laboratori e quant'altro, con un laboratorio internazionale a livello delle Nazioni Unite, l'ICGB, abbiamo centri di ricerca del CNR, ma della Bracco, ma del dottor Char, che non conoscevo, che quello fa prodotti per i celiaci. Abbiamo tutto quanto un elemento, una varietà, e proprio dalla miscela di competenze diverse, il concetto di un parco scientifico è quello della virgolette macchinetta di caffè. Tu hai un'idea, io ho un'idea e diventano due idee, magari con quella nuova interessante. Ecco, quindi mettere insieme queste persone, soprattutto giovani all'interno di questa parte sì. Di ricerca. C'è un livello di età molto basso. Ma per i diversamente giovani c'è ancora spazio? Sì, i diversamente giovani portano esperienza, i diversamente giovani sono la base. Non bisogna buttare. La rottamazione dei vecchi è una delle idiozie più grosse che sia stata detta negli ultimi tempi. Beh, lo diciamo forse tra di noi, che forse qualche anno l'abbiamo. Cerchiamo di difendere la specie. No, lo dicono anche i giovani, che quelli che sono intelligenti. Io quando ero giovane, senza i miei baroni anziani, avrei fatto un decimo di quello che ho fatto. E quindi, ecco, guardando un po' in avanti anche al sistema Italia in cui siamo messi, abbiamo cominciato parlando un po' dei problemi, del complicarci un po' la vita da soli, però cerchiamo di concludere con uno sguardo di ottimismo, perché dobbiamo essere ottimisti su questo nostro paese, su questo nostro sistema, su questa nostra realtà? Possiamo essere ottimisti soltanto se alla fine ci crediamo realmente nell'innovazione e nella ricerca. E crediamo vuol dire tutti, dal sistema industriale all'università ai politici. Attualmente tutti lo dicono, ma pochi ci credono. Bisogna aumentare il numero di coloro che ci credono e creare una strategia complessiva. Strategia complessiva, quindi non disperderci in 2000 rivoli. Chi dà soldi a livello pubblico statale sono l'ira di Dio dei ministeri e l'ira di Dio di commi all'interno di leggi. Cioè il problema non è tanto quello delle risorse finanziarie quanto quello di utilizzarle bene. Sì signore, saper dir di no, perché scegliere vuol dire saper dir di no. Noi abbiamo detto di sì sempre a tutti. E quindi ecco, è un paese in cui sono forse troppe università, troppe realtà, in cui però il mercato un po' la sua parte la fa, ma non troppo. No, non fa bene, il mercato non fa bene la sua azione, secondo me. E troppe università, cosa vuol dire? Vuol dire che, come da altre parti, in altri paesi del mondo, esistono le cosiddette research universities, cioè quelle che fanno ricerca, e quelle che sono le teaching universities. Noi abbiamo bisogno di tante teaching universities e poche research universities. Ecco, questa è una strategia concreta che possiamo intravedere. Comunque, diciamo, per concludere rapidamente, ce la faremo. Ma penso di sì, tutto sommato bisogna essere ottimisti, altrimenti non farei il lavoro che faccio io. Grazie mille, grazie a Adriano De Maio, presidente dell'area ricerca di Trieste, già rettore del Politecnico di Milano, di essere stato con noi questa sera e ci ha dato qualche speranza anche sulle potenzialità di questo nostro paese, di guardare soprattutto in quest'ottica multidisciplinare in cui al centro resta la persona che ha tanti interessi, tante possibilità e tante capacità creative poi in fondo. Grazie Adriano De Maio, grazie ancora, a Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere, anzi deve essere, riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora per quanto resta. Buona domenica.